È già uscito in libreria e in fumetteria dal 24 febbraio il fumetto Feida di Tommaso Renzoni e Raffaele Sorrentino, edito da Minimum Fax. Io sono qui a parlarne proprio con loro, quindi un buongiorno a Tommaso e Raffaele. Ciao ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Allora ragazzi, partirei dal titolo Feida. Vi chiederei un po' che cosa vuol dire, ma anche che cosa rappresenta, perché penso che poi racconti un po', no, quello che ci sta dietro questa storia. Sì, certo. Il titolo è l'origine della parola Feida, che nel diritto tedesco sanciva proprio questo diritto a vendicarsi nel sangue. E visto che la nostra storia inizia in Italia ma finisce a Duisburg, e che la parola Feida inizia in Italia ma andando a ritroso arriva in Germania, ci è piaciuto collegare i due ambiti. Ecco, avete voglia proprio di raccontarci un pochino la storia? Mi piacerebbe che fosse proprio voi, ecco, a raccontarla, ovviamente senza troppi spoiler, giustamente. Allora, la nostra storia inizia in un paese della Calabria, dove durante un carnevale negli anni 90 due ragazzi si sfidano a fare una bravata, e da questa bravata, da questo lancio di uova, in realtà inizia una faida di sangue tra due famiglie rivali che si protrarrà per 30 anni. E quindi raccontiamo come all'interno di un sistema mafioso, di un sistema virilista e macista, un piccolo errore può bloccare completamente le vite dei nostri protagonisti per tutta la loro esistenza, fino a portarli a uno scontro estremo. Senza spoiler. Esatto, senza spoiler. Una cosa che invece possiamo dire è che il fumetto fa parte della collana cosmica di Minimum Fax, ovviamente, ovvero quella collana in cui spesso gli autori vengono messi insieme, diciamo, dall'editore, come appunto è capitato per il vostro caso. Come è andata, ragazzi? Come è nata la cosa? Come vi siete trovati, ecco? Ok, allora, ci ha messo in contatto appunto l'editor della collana di Minimum Fax Cosmica, che è Carlotta Colarieti, che già stava collaborando con Tommaso, e poi mi hanno scritto per fondamentalmente mandandomi il soggetto della storia. Sono impazzito perché è un tipo di storia come avrei voluto raccontarla anch'io, e quindi da quel momento ci siamo un po' rimpallati anche nella scrittura fino ad arrivare a una soluzione definitiva sulla sceneggiatura e poi via di disegno. Ok, quindi direi che è andata bene, visto anche il risultato, insomma, del fumetto sì, uscito. Una comunione di intenti ben riuscita. Bene. Un'altra cosa che vi volevo chiedere è l'utilizzo dei colori. Insomma, ci sono delle scale cromatiche, no, differenti a seconda della pagina, del protagonista e di quello che viene raccontato. Come li avete decisi, come sono suddivisi, ecco, i colori all'interno di questo fumetto? Allora, il colore è stato fatto in realtà da Riccardo Pasquale, che è il terzo membro di questo gruppo di lavorazione, con cui abbiamo lavorato appunto tantissimo sul colore e sull'identificazione del colore, perché diventa poi anche territorio letteralmente all'interno della tavola. Il colore, appunto, si parte dalla cosa più semplice, cioè i colori divisi per le famiglie: i pelle sono in tonalità di blu e i mancuso sono invece in tonalità di rosso. Di blu. E poi si passa in realtà fino a un tipo di colorazione che va a rappresentare il passato e uno nel presente, quindi il colore in realtà diventa un elemento narrativo molto forte all'interno del volume, ed è stato un lavoro che ha richiesto comunque parecchi mesi prima di arrivare a una bozza definitiva, più o meno. Ragazzi, invece, per quanto riguarda firmacopie, sapete già, passerete qua per Bologna, ci sarà qualcosa, insomma, raccontateci, ecco. Sì, sì, siamo a Bologna il 13 aprile, giusto Tommaso? Sì, siamo il 13 aprile da Dumbo. Dumbo, lo spazio Dumbo, con l'associazione Libera a presentare il volume. Siamo sì un po' in giro adesso, il 30 saremo a Roma, a Rupa. E il 14 aprile invece a Milano e poi a Napoli il 20 aprile. Perfetto ragazzi, allora vi aspettiamo, insomma, per parlarne al Dumbo, dicevate, ricordatemi il giorno, il 14 aprile avete detto? No, il 13 aprile, il 13. Il mio compleanno. Ah ok, perfetto. Vediamo anche il compleanno di Tommaso. Allora verremo anche a farti gli auguri, Tommaso. Grazie. Va bene, grazie mille ragazzi, e insomma ci vediamo al Dumbo il 13. Grazie Molto ancora. Volentieri. Grazie a voi. Grazie a te, a presto.